e scende questo mio senso di vertigine. Sale e scende questo mio senso di vertigine. Sveglio e attorno a me non trovo più le pareti che c'erano prima, le pareti che c'erano prima. Esiste un giorno consono ma non adatto a tutto, nel quale si può leggere ma non studiare, nel quale si può morire ma non vivere, pensare ma non scrivere. Quel giorno è ogni giorno che piove. Quel giorno è ogni giorno che piove. Avere non avere.